guardati in corno disgustati. Proprio per questo ci ha convinto di essere sbagliati. Ci hanno incontrato in punto della televisione, uomini e donne all'apparaglio senza direzione. Senza direzione, senza direzione, senza. Va bene fare soldi e non va bene lavorare, e noi col tempo ci siamo pure abituati. Un popolo di gloriosissimi menomati, abbiamo conclamato la supremazia del soldo, diventando mercenari elettori al soldo di chi non crede nel miracolo sociale, nato da chi non mangia il panettone a Natale. Senza direzione, senza direzione, senza. Senza direzione, senza direzione, senza.